Mi sarei da volare, ma le 42 anni che sono qui, ecco, Quindi abito la Zoncone. Ecco, chi siamo del centro storico. Beh, diciamo che mi ricordo là in piazza che c'erano tanti negozietti e adesso sono spariti, ecco. La gente ci conosciamo tutti, ecco, diciamo. Però sono arrivate nuove famiglie, quelle non le conosciamo bene, no? È molto tranquillo, molto bello. No, no, è bello qui a Sacco, guarda, dico la verità.